bidon, 17ª puntata. Buongiorno e benvenuti alla 17ª puntata di Bonjour Bidon. Io sono Angelo Trofa. Io sono Leonardo Piccione. E abbiamo con noi anche Emmanuel Macron. Buongiorno. Il presidente. Buongiorno presidente. Ma oggi è la tappa Francia, il presidente. È qui con noi. Buongiorno presidente. Oggi è la 16ª nostra puntata, ma anche la tappa regina del Tour de France. Ma come regina? Non c'è più la regina in France. On a fait la révolution, la décapitation. Ma vogliamo chiudere qui questo siparietto. Questo meraviglioso siparietto. Come avrete immaginato, lui non è veramente Macron, ma è il nostro Filippo Cauz. Mamma mia, che roba stamattina. Abile imitatore. Credo che l'80% di voi ci siano veramente cascati. Ragazzi, io direi di passare subito all'altro. Vabbè, comunque, con grande entusiasmo per questa nostra meravigliosa gag. Ho i brividi, ho la pelle d'ocra. Come tra l'altro questa gag è un'idea di Leonardo Piccione. Assolutamente no, ma mettiamo le cose in chiaro. Io con questo non c'entro nulla. Ripristiniamo la ghigliottina. Comunque, oggi in Francia ci sarà davvero Macron e ci saranno anche tante salite. E ci sarà la tappa regina. E di altro parleremo adesso. Ale! Tristezza, la tappa più importante del tour e noi la cominciamo in questo modo barbaro. Ma se c'è il presidente, è come se al Giro d'Italia ci fosse Mattarella. Piuttosto Gentiloni, ti immagini un bel discorso di Gentiloni al processo alla tappa? Un bel 45 minuti di intervento chiedendosi cos'è successo. Ovviamente si scherza, presidente. Siamo tutti sempre con lei per il posto in Rai, presidente, ci siamo. Comunque, come va il tuo soggiorno a Cagliari, Filippo, tu che sei appena arrivato? Va molto bene, sto esplorando tutte le pizze, come si chiama esattamente? Le pizzette sfoglie, ecco, per quelli di voi che non sono ancora stati a Cagliari, oltre al mare, oltre ai bellissimi panorami, oltre alle mille cose da vedere, c'è una tradizione della pizzetta sfoglia, che i cagliaritani pensano di avere solo loro, ovvero sono dei rustici che vendono in tutti i bar, e io ho costretto i miei due soci a mangiarle notte e giorno. Voi non lo state vedendo, ma in questo momento Angelo, pervaso da spirito sardo, come ho detto per tutti voi, si è messo a sbracciarsi verso il monitor. È vero, cioè anche mi sto per far tatuare i quattro mori sul braccio. Ma parliamo di altro, parliamo di oggi. Parliamo di Tour de France. Assolutamente, se proprio vuoi. Se proprio dobbiamo, guarda, in questi 40 minuti una decina li dedicherei al Tour, che oggi sta per vivere forse la sua giornata più importante e decisiva, ma anche ieri ne ha vissuta una niente male. Assolutamente, la tappa di ieri molto divertente, si prometteva il vento laterale e purtroppo c'è stato davvero per il fortuna, vento. Per fortuna, ci siamo divertiti. Sì, purtroppo, ma perché io amo il fatto che si parli di una cosa che poi in realtà non c'è come le altre volte. Invece ieri si è parlato del vento laterale, c'è stato il vento laterale, ma prima di parlare del vento laterale, partiamo col stacchetto sul vento laterale. Ah, c'è lo stacchetto. Ma è il solito stacchetto, non è lo stacchetto sul vento laterale. Ma se ascolti bene, c'è un vento laterale che sottende lo stacchetto. Okay. Comunque, parliamo della tappa di ieri. Parliamo della tappa di ieri, perché ieri è stata divertente dall'inizio, nel senso che molto prima che arrivasse il vento a rompere, a spezzare il gruppo in più parti, c'è stato l'attacco della Sunweb sulla prima salita, si è staccato Kittel e tutta la Sunweb, la squadra di Matthews al completo, si è messa davanti a tirare per fare in modo che non rientrasse il gruppetto di Kittel rimasto attardato. E non è più rientrato Kittel. E ieri Matthews, vincendo il traguardo volante, vincendo poi la tappa, si è riavvicinato tantissimo nella classifica della maglia verde e adesso è rientrato pienamente in gara punti, per la maglia verde. 30 punti gli mancano. Se Matthews oggi vince il tappone, prende la questo maglia verde. Forse il traguardo volante potrebbe vincerlo anche oggi e anche domani magari. Vogliamo se dire che vince il tappone riprende il suo vantaggio. Però se vince il tappone riprende il suo vantaggio. Vogliamo dire che la lotta per la maglia verde è diventata bellissima dopo l'esclusione di Sagan, perché altrimenti l'avrebbe vinta lui facilissimo. Non lo so, leggevo ieri su un articolo che sosteneva come questo Tour de France sia stato disegnato per impedire a Chris Froome di vincere la maglia gialla e non per impedire, per mettere in difficoltà Chris Froome sulla maglia gialla e Peter Sagan sulla maglia verde. Effettivamente io non lo so se Sagan sarebbe stato così in maglia verde sicuramente. Mentre di so sicuro che Valverde sarebbe stato in maglia gialla sicuramente. Dici che sarebbe stato in maglia gialla Valverde ora. Non comunque torniamo mai. Invece alla tappa di sì. Ieri abbiamo detto una bella volata di Matthews, una bella azione Bling. Di Bling 90, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa. Ma Ma la tappa caratterizzata però anche da una piccola polemica finale, perché alla fine pare che il John Degenkolb. Lui abbia avuto da modo di protestare con Matthews. Pare che sia andato alla fine della volata a dirgli la parolaccia inglese che inizia con F, dicevano alla Rai. È stata una volata scorretta quella di Matthews. Gli ha detto my friend, infatti. Io l'ho rivista adesso, no. Cioè, gli ha lasciato tutto lo spazio per passare. Non credo ci sia una scorrettezza, però gli ha tirato anche un bel ceffone. Ho visto anche le immagini e niente, la giuria per questa volta si è astenuta dal commentare. Giustamente. Sì. E invece poi il finale, però, al di là di questa volata, è stato caratterizzato dai ventagli che ci sono stati. Li ha creati la Sky. L'ha creato l'unico ventaglio. Ci ha provato innanzitutto la Trek, provando a fare un ventaglio più brutto che abbia mai visto, sì, senza riuscirci in alcun modo. E poi ci hanno provato un po' tutti. La Sky è quella che ha tirato la menata più forte. Qualcosina ha smosso. Sì, c'è questa immagine che state vedendo ora, se siete davanti a Facebook, nel proprio il momento in cui la Sky fa il ventaglio, si crea il piccolo buco dove Haru resta dietro di un paio di metri e riesce con una grandissima azione, perché ieri Haru ha fatto un gran numero, a rientrare sul gruppetto che si era avvantaggiato con gli uomini della Sky. A tirare. Dopo Haru, ancora più dietro in questa immagine, ci sono Bardet e Nezen, che sono stati gli ultimi ad agganciarsi al ventaglio che stava andando via. Sì, cioè, Haru ha fatto un gran numero, perché lì per rientrare ci vogliono solo le gambe. L'unica cosa che devi avere, e evidentemente le ha, e questo promette bene. E Bardet si era trovato un attimo solo, è arrivato Nezen in maglia tricolore, anzi in tricleur come dicono in Belgio, e Nezen ha visto la maglia tricolore, gli si è messo a ruota. Sì, Nezen. Bardet ha visto la maglia tricolore di Nezen e gli si è messo a ruota. Nezen lo ha riportato sotto, tanto che nel finale ha dichiarato Nezen che ha sentito Bardet urlargli alla fine di questo momento convulso dei ventagli, gli ha urlato mi hai salvato la vita. Mi hai salvato la vita. Forse la vita no, però il tour gliel'ha salvato. E invece non c'era nessuno a salvare il tour di Daniel Martin, che ieri sulla carta a inizio tappa aveva la squadra più adatta per creare danni in un giorno del genere con il vento, per l'abitudine che sappiamo della Quickstep a queste condizioni atmosferiche, e invece la Quickstep è rimasta quasi completamente insieme a Kittel nel gruppo che si è staccato all'inizio della tappa. Daniel Martin era solo o quasi solo nel finale ed è rimasto attardato, ha perso un minutino, credo. 50. Una cinquantina di secondi, cioè molto più di quello che con grande grinta e caparbietà è riuscito a guadagnare in pianura nelle due tappe precedenti, poverino. È una meraviglia come la Quickstep riesca a perdere le corse in certi momenti. Ieri sono rimasti tutti indietro a cercare di salvare un Kittel ormai spacciato e con ciò si sono persi il piazzamento di Daniel Martin. Ma perché la Quickstep sarebbe stata una squadra importante ieri, Angelo? Perché viene dal Belgio, e ieri in telecronaca ci hanno ricordato che tutti i belgi sono bravi a pedalare nel vento. Sì, gli olandesi, i belgi. No, i belgi in particolare. No, Leonardo, se sei disattento non è colpa nostra. I belgi sono forti. Ma i belgi hanno un accrescitivo, un diminutivo, perché vabbè, i tedeschi sono i tedesconi, i francesi sono i francesini, i belgi che sono? I belgissimi. Gli olandesi sono olandesoni a volte, sì, Dumoulin e l'olandesone. Sì, no. Beh, in realtà perché i belgi si differenziano potrebbero essere i fiamminghini e i vallononi. Il doppio accrescitivo. Come vedete c'è molta emozione tra di noi, perché la tappa di oggi l'aspettiamo veramente con trepidazione. E prima di andare avanti vi chiediamo gentilmente, oggi vi facciamo una domanda. Non vi chiediamo secondo voi chi vince dopo sul Galibier, ma anche perché non arrivano sul Galibier, esatto. Chi vince la tappa di oggi, ma vi chiediamo, visto che tra oggi e domani ci sarà probabilmente lo sconvolgimento della classifica, non vi chiediamo chi vincerà, ma vi chiediamo secondo voi chi scomparirà, chi salta oggi tra gli uomini di classifica, diciamo tra i primi 10. Sì. Chi avete visto peggio, e così dopo ne parleremo quando parleremo in maniera più specifica della tappa di oggi. Comunque noi andiamo avanti. No, Milena ci suggerisce per i belgi un appellativo corretto, potrebbe essere belgioiosi. Lo apprezzo molto, in quel caso sarei belgioioso anch'io. Comunque andiamo avanti, con grande costernazione e impegno ascoltiamo il nostro spot. Costernazione. Nonno! Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku! E dai, nonno, raccontamela! E va bene! Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... Avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku, se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850 80 90 60 70 80. Questa battuta era mia. Ma io sono piccola, no, non l'entusiasmo dei piccoli. Non ti sopporto, ma perché non te ne vai al mare? Uffa. Porco mondo. Sarà andata al mare finalmente sta bambina, ce lo auguriamo tutti da giorni ormai. Lo stiamo per scoprire, lo stiamo per scoprire perché lo spot, gli orologi sbagliati ci stanno per mandare nuovi spot. Ah sì? Si evolve la storia. Sì, si evolve la storia. Come Twin Peaks. Sì, ma non è vero, la Francia non sbaglia mai gli orologi. Beh, questa imitazione del presidente francese è strepitosa. Comunque, vabbè, sarà. Ma andiamo avanti per cortesia. Andiamo avanti perché è arrivato il momento dove seguiamo direttamente dai corridori come loro hanno visto la corsa di ieri, con i nostri niente meno che Cinguetti, sì, dalla corsa. Questo mi piace. Allora, il primo tweet del quale parliamo è un tweet del nostro Fabio Aru, che si esalta della sua riuscita di ieri. Sì, abbiamo detto, ieri è stato bravissimo, ha pubblicato questa foto in cui lui è rientrato sul gruppo dei migliori e scrive un'altra tappa stile Fast and Furious, con un razzettino, e poi è andata. Ora possiamo concentrarci sulle montagne. Io voglio sottolineare il fatto che il cambio di prospettiva di Aru dal tweet dell'altro giorno, molto dimesso e quasi... pessimista, a quello di ieri davvero così positivo e ottimista. Siamo comunque felici. Io invece posso sottolineare il fatto che tra i corridori va molto di moda a commentare con l'espressione Fast and Furious. Vero, sì. Lanceremo una raccolta firme per l'abolizione dell'espressione Fast and Furious, che ha iniziato anche abbastanza. Perché abbiamo scoperto prima che nessuno di noi tre ha mai visto neanche uno di questi film. Adesso abbiamo perso una ventina di spettatori in un attimo. Al massimo Vite et Furieux. Certo, noi siamo francesi, ma sugli spettatori non abbiamo problema, perché li abbiamo già persi quando abbiamo detto la mia idiosincrasia per il sushi. E quindi che vuoi ricordare? Sì, sì, ricordo il sushi. Sushi e volate. Andiamo avanti con un altro tweet, o come dice Alessandra De Stefano, Twitter. Con un altro Twitter, il Twitter di Ten Dam, se non sbaglio. I due di Ten Dam, che sono favolosi. Ten Dam è uno dei più importanti corridori della Sunweb, che ieri abbiamo detto ha fatto la tappa, ha stravolto un po' l'andamento della tappa. Ha scritto due cose molto leggere a fine tappa. Ha scritto intanto: li abbiamo tenuti per le palle. Ha scritto il primo tweet, ha aperto così in leggerezza e in simpatia, riferendosi agli avversari, immagino. E poi ha aggiunto: dopo che li abbiamo tenuti per le palle, Michael Matthews li ha smashed, vuol dire li ha sbattuti con forza sul tavolo. Cioè proprio questa violenza che viene fuori dalle parole di Ten Dam. Va bene, bravo. Ma è riferito agli avversari? No. Perché Dam potrebbe essere riferito anche a Bowles. Ah, dici? A addirittura, ulteriormente. È capire cosa ha fatto Matthews ieri. Macismo e ciclismo oggi a Bonjour Bidon. Andiamo avanti invece, dopo un tweet così, diciamo, conciliante, maschio, con un'immagine, l'immagine della tenerezza. Anche oggi bambini e ciclismo nel tweet di Maurits Lammertink, esatto, che ieri ha pubblicato la foto di suo figlio davanti alla TV e ha scritto: sarei voluto andare in fuga anche oggi, ma semplicemente per farmi vedere da questo simpatico signore davanti alla TV, ma non avevo le gambe cattive, ha scritto lui in olandese, se non abbiamo tradotto male. Domani è un altro giorno, ecco il pollicione in alto, e speriamo che questo bambino possa gioire del proprio genitore. Ma oggi sarà difficile, ma magari nei prossimi giorni. Vabbè, perché ma comunque no? Io me lo auguro, basta, tifo lui. Il mio favorito è Lammertink. Andiamo avanti con un altro tweet. Il tweet che leggiamo adesso è un tweet di uno degli sconfitti di ieri, di Daniel Martin. Sì, abbiamo già parlato di lui, però a fine tappa lui ha twittato una cosa molto ottimistica. Dice: poteva andare peggio di così, sto bene, finalmente posso alzarmi sui pedali. In più, all'orizzonte stanno arrivando alcune collinette, le chiama lui così le Alpi che da oggi ci saranno al Tour de France. Quindi Daniel Martin assolutamente non abbattuto da quello che è successo ieri, combattivo, e lo vedremo certamente oggi. Invece adesso andiamo avanti con sempre nei nostri cinguetti della corsa, con la sezione Chi l'ha visto, perché proprio a proposito di Alpi abbiamo un'inquietante immagine di Menzies, o come si dice. Dai, non è inquietante, poverino. Descrivila per chi non ci può guardare. Allora, c'è il nostro Menzies, il corridore che ricorderete tutti per le sue famose azioni, i suoi scatti in salita, che è tra i primi 10, giusto? Come è messo in classifica? Ottavo, no? Vabbè, è messo abbastanza bene il nostro Menzies. Si fa fotografare probabilmente in allenamento di fronte al cartello stradale del Galibier, ed è lì vestito come un ragazzino di 16 anni al supermarket. Ne ha pochi più di 16 in realtà, sì. Quindi. E scrive, non l'ha pubblicata stamattina, perché io non sono sicuro che sia stata una buona cosa, che sia una buona cosa sapere quello che avverrà oggi, perché lui ha fatto probabilmente la preview, ha corso sulle strade della tappa di oggi e sa che sarà una tappa davvero dura anche per lui. Infine, l'ultimo Twitter, come dice Alessandra. Questo in realtà viene da Instagram ed è Marcel Kittel che ci mostra quello che lui chiama, sullo sfondo ci sono le Alpi, dice il nostro parco giochi di domani, cioè di oggi, e tra parentesi una cosa molto divertente, e io come al solito sarò il grassone che viene preso in giro dagli altri, di nuovo, e faccina triste. Povero Kittel, perché in queste tappe ovviamente non è tra i protagonisti e soffrirà lui come tutti i velocisti oggi. Ma è il protagonista del nostro cuore? Le Alpi all'orizzonte, e dobbiamo dire che grazie al prossimo stacchetto si cambia musica. Perché? Il Tour de France, la gara sportiva più seguita al mondo dopo quella che è veramente la più seguita al mondo. Cioè? Sicuramente più seguita del torneo delle tre castagne a Finfarello sull'Adda. Ah beh, meno male. Il Tour de France, come suona bene, altro che Giro d'Italia. Ma no. Lì senti subito odore di porchetta. Ma non il è vero. Il Tour de France, un tot di corridori che corrono in Francia a luglio. In certo. Francia, in bicicletta, ricordatevi che è a luglio, tra l'altro a luglio fa caldo. Decisamente. Il Tour de France, riuscirà il keniano bianco a predominare sul cavaliere dei quattro mori, sul pistolero e sul condor attonito delle Ande? Anche lui attonito. Il Tour de France, avete sentito che soprannomi chic? Altro che alla Vuelta, lì non ce li hanno, lì si chiamano emettendo suoni gutturali. Ma no, il Tour de France, emozione, passione, ciclismo, sudore. Ricordatevi che a luglio fa caldo. Sì, l'ha già detto. Il Tour de France su Rai 3. Una valida alternativa alla casa nella prateria. Vabbè, se il confronto è con la casa della prateria. È bellissimo questo spacchetto. Ma perché, scusami? Perché si cambia musica, ci sono le cioè, Alpi. Cioè, qui arriva l'epica delle Alpi, del Galibier, dell'Isoar, e noi ci abbiamo il lancio. E infatti abbiamo il lancio, lo fanno anche sulla Rai, anche su Eurosport, hanno questa voce che ci ricorda la grande epica del ciclismo. Ecco, cioè, quindi noi non siamo da meno. Comunque, vabbè, come si diceva, comunque. Si cambia musica, ci sono le Alpi, e vediamo un po' nello specifico cosa ci aspetta da oggi pomeriggio. Qual è la valida alternativa alla casa nella prateria di oggi pomeriggio? E ce la racconta come sempre l'ottimo Pietro Pisaneschi con i suoi resoconti, anzi no, con no. La tappa che verrà. Vai. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 17esima tappa di questo Tour de France 2017 dalle Mura a Serre Chevalier per 183 km. È finalmente giunto il giorno delle Alpi e delle grandi salite storiche del Tour de France. Prima dell'arrivo alla stazione sciistica di Serre Chevalier, i corridori dovranno infatti affrontare 4 salite senza poter godere nemmeno di un metro di pianura. Si comincia a salire dopo appena 25 km con il Col d'Ornon 5 km al 6.7%, ma il primo momento spartiacque della tappa sarà l'ascesa della prima salita hors catégorie di giornata. Il Col de la Croix de Fer è una salita a gradoni di 24 km che, nonostante abbia una pendenza media intorno al 5%, presenta alcune rampe intorno al 10%. A 64 km all'arrivo ecco una delle coppie di ascese più evocative della storia del ciclismo. I corridori infatti affronteranno in rapida successione Telegraph e Galibier, arrivando fino a quota 2642 metri, il punto più alto di questa Grand Boucle. La coppia misura complessivamente 35 km, solamente 4 dei quali sono di discesa. Il tratto più duro si raggiunge in cima al Galibier con l'ultimo chilometro e mezzo intorno al 9%. Dalla cima del Galibier 28 km di discesa verso il traguardo. È l'inizio di una 2 giorni nella quale i pretendenti alla maglia gialla dovranno fare di tutto per mettere in difficoltà Chris Froome. Aru, Bardet e Uran saranno dunque da tenere d'occhio, così come Contador. Il pistolero, giunto al probabile ultimo tour della carriera, difficilmente arriverà a Parigi senza aver provato minimamente a lasciare il segno. Oggi è lui il mio favorito per la vittoria di tappa. È tutto per oggi, vi invito a seguire il post tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P. Au revoir. Au revoir, caro Pietro. Quindi il suo favorito per oggi è Contador. Il suo. Il tuo? Ah, partiamo subito dai favoriti. Partiamo dai favoriti. Il mio è Fabio Aru. Il tuo? Perché l'hai detto? Forse lui non sa perché non era con noi, che nei giorni importanti tendiamo a parlare poco di Aru, non facciamo il sardo in sardo. Ma lui è milanese, non lo sa, non è del sud come noi. Va bene, comunque ha detto questo nome, ma vediamo, sono scettico. Sei scettico. Ma invece parliamo un po' del Galibier, della tappa di oggi, che cosa rappresenta, che tappa è? Ah, la tappa di oggi, vabbè, il tappone alpino manca sempre, speriamo vada un po' meglio del tappone pirenaico come spettacolo, e penso di sì. Succede una cosa molto importante, oggi si arriva al 45esimo Gran Premio della Montagna del Tour de France, sì. E dopo 44 Gran Premi della Montagna per la prima volta si va sopra i 2000 metri. Questa è una delle anomalie del disegno di questo Tour de France, e sappiamo come la quota sia un elemento selettivo per determinati corridori, non per tutti. Sono corridori che non reggono bene l'alta quota, il più famoso ad esempio è Valverde, non c'è, e per cui vedremo forse un elemento nuovo. Molto dipenderà dal clima, che credo sia buono, purtroppo, lo dico terra terra, perché il brutto tempo su queste montagne mi spiace per i corridori, ma fa la differenza. Arriviamo a parlare di Galibier chiaramente per tutti noi è legato, per tutti noi che l'abbiamo vissuto è legato a un'impresa più di ogni altra, ovvero a quella di Pantani del 98 su, certo, un percorso di tappa abbastanza simile. In quell'occasione, se non ci fosse stata una giornata, come si dice per le espressioni già fatte, una giornata da tregenda o anche dantesca. Anche dantesca, non avremmo visto probabilmente un'impresa di quel livello. E poi, per la gioia di Angelo, c'è sempre il vento. Perché poi si scende verso il Lotaré, vallone ventoso da sempre, lì Schleck e Evans si giocarono un Tour de France, e per cui anche oggi si può parlare di vento fino alla fine. Io invece ieri ho scritto su Twitter che la tappa di oggi e quella di domani sono, se vogliamo fare un paragone calcistico, che forse ha senso ma forse no, sono due finali di Champions League in 2 giorni consecutive. Un po' per la situazione di classifica che si è creata con questo equilibrio totale, 4 uomini in 30 secondi, un po' perché oggi e domani il Tour de France va nei luoghi, in alcuni tra i luoghi più storici e più leggendari della sua lunga esistenza, della sua lunga storia, il Galibier e l'Isoar in particolare. Sul Galibier dico una cosa io, poi mi sa che tu ne hai un altro paio, perché vogliamo un po' fomentare lo spirito nostro e di chi ci ascolta. Anche. Sì, molto velocemente, soltanto quello che disse Henri de Grange dopo la prima scalata storica del Galibier nel 1911: al confronto del Galibier le altre cime sono pallida e volgare brodaglia. Di fronte a questo gigante non c'è che da togliersi il cappello e salutare rispettosamente. Questo Henri de Grange dopo la prima scalata del Galibier. Prima scalata che vide scollinare Émilie Georget, dorsale numero 2 al Tour de France 1911, che al termine della tappa disse: invece che fare un tunnel in cima al Galibier, non avrebbero potuto farlo in basso senza farci arrampicare sin lassù nella neve? Non mi sarebbe dispiaciuto. Giustamente. Una delle dichiarazioni più belle della storia del ciclismo. Però non sarebbe passato alla storia, probabilmente. Per cui cioè, oggi il buon Georget, che immagino non sia più tra noi, forse dovrebbe anche ringraziare il Galibier. Galibier che nel 1924 fu descritto da Henri de Coin in questo modo. 1924 passò Aimo in testa, quel tour lo vinse Bottecchia. Bottecchia su cui il nostro caro amico Claudio Gregori ha appena scritto un libro che vi direi che è stupendo se fossi arrivato quasi alla metà. In realtà è una bellissima mattonella, ma è stupendo, lo dico comunque. E salutiamo Claudio Gregori. Ciao Claudio. E lo descrisse così: Il Galibier è una vecchia montagna malandata, rugosa, sfregiata, straziata, scorticata. Fa l'effetto di una rovina molto vecchia. Una rovina molto vecchia. È una bellissima definizione, ma oggi c'è tra le tante cose anche il Galibier, ma esattamente, voi cosa vi aspettate che succeda oggi? E dove ve lo aspettate? Dove succederà qualcosa, caro Filippo? Ultimi 3 chilometri del Galibier. Ah, si punzecchiano un po', restano in 5-6, arrivano poi in 5-6 insieme. E quindi il tuo favorito lì è quella persona che hai nominato prima, che non nomineremo. Fabio Aruda, Villa Cidro, Sardegna, Italia. Ti ho già detto che non lo devi dire, Leonardo. Io nomi tenderei a non farli oggi, anche, no, ne faccio uno che secondo me attaccherà sulla Croix de Fer, cioè sulla seconda salita di giornata, e penso che è lo stesso che ha sottolineato Pietro, cioè Contador. Oggi mi aspetto qualcosa da Contador sulla Croix de Fer. Con Quintana sarebbe una possibilità. E con Landa forse? Non lo sappiamo. Difficilmente. Una parte di noi vorrebbe, ma sappiamo che realisticamente è difficile. Posso fare anch'io il mio pronostico, certo, se non vi dispiace? Con una volta tanto che vuoi farlo. Sì, secondo me oggi Froome. Con questo sorriso finale. Oggi lo vedo benissimo. Froome sta realmente bene. Poi vedremo anche una bella fuga, secondo me, oggi. Non so se arriverà al traguardo, ma mi aspetto nomi, anche dei classici nomi dei fuggitivi. Io spero oggi di vedere finalmente Bananito Betancourt all'attacco. Ah sì? Bel nome. Così, tirato fuori da cindere. Posso dire una cosa? Cioè, visto dirla, che mi avete ingiustamente accusato nei giorni scorsi di essere appassionato troppo di numeri e di statistica, posso dire una cosa un po' più romantica? Vai, prego. Mi vediamo 30 se ci secondi. Riesci. Beh, probabilmente non ci riesco, però voglio provare a dirla. Nel senso che io oggi sono realmente emozionato per l'inizio di questa tappa. È vero, sei arrivato anche puntuale. Sono arrivato anche stranamente puntuale. No, perché noi seguiamo tutto il ciclismo, cerchiamo di seguirlo tutto. Abbiamo seguito le prime tappe del Tour, quelle in pianura noiosissime. Abbiamo cercato di raccontarle, di trovare delle storie, perché poi il ciclismo, le corse a tappe hanno questo vantaggio di proporre delle storie, dei luoghi da raccontare ogni giorno. Però posso dire che se io e se molti di noi seguono il ciclismo è perché una volta, un pomeriggio, abbiamo acceso la TV o qualcuno l'ha accesa per noi e c'erano le montagne. C'era forse una tappa alpina, forse una tappa alpina del Tour de France. E oggi è uno di questi giorni, uno di quei giorni in cui il ciclismo diventa storia del Tour de France e diventa storia anche nostra, perché poi prendo me per esempio, ma penso che sia una cosa condivisa da molti, quando ci troviamo su un cavalcavia di una città con la nebbia e con la pioggia, ci rallegriamo pensando magari per un attimo di essere sul Galibier o sull'Isoar. E questo, no, è il valore del ciclismo quando si sposta da sport a esperienza nostra personale. Oggi è una tappa così, domani sarà una tappa così. Probabilmente molte persone oggi si appassioneranno al ciclismo, lo guarderanno per la prima volta, speriamo che sia così. E quindi sono emozionato per questo, e quindi divertiamoci ed emozioniamoci se è possibile, perché alla fine è per questo che siamo qua, no? Leonardo, devo dirti una cosa. Sei riuscito a superare la tua condizione di laureato in statistica. Grazie, bravo. Grazie. Sei diventato un essere umano adesso. Grazie. E ha di nuovo senso il tuo fan club. Ragazzi, iscrivetevi al fan club di Leonardo Piccione, il fan club dei buoni sentimenti. Adesso buoni sentimenti. Sta quasi diventando Fiammetta Ruio. Bravo, ed è giusto. Guarda, sicuramente adesso con questa nouvelle vague che ti ha preso, apprezzerai la nuova puntata dei Resoconti Ocra che stiamo per ascoltare. Infatti, dal Galibier, dalla terra di Francia, Fiammetta Ruiu ci ha inviato la puntata odierna dei Resoconti Ocra. E va bene. Questa storia inizia dove la montagna incontra la terra e la terra incontra il cielo. Bello. Quando si incontrano il cielo e la terra, si parla della montagna. Sì. Quando la montagna incontra la terra, l'argomento è il cielo. Sì. Quando il cielo incontra la montagna, si spettegola della terra, ma quando si incontrano tutti, sorridono indifferenti, sono tutti amici. Doppie facce. In questo luogo di incontri ipocriti, abita Fracna, ambizioso e dispersivo insegnante dispersivo. Di Fracna nutre un sogno nel suo cuore rotondo ed ispido: realizzare la prima pista da sci in gelato di Serge Chevalier. In gelato. Bravo. Vede già i suoi allievi discendere dalle piste di pistacchio o fragola. Le piste di pistacchio. Forza Fracna, contatta i gelatai, costruisci gli impianti, porta dei progetti al comune. Soprattutto dai, al comune. Fracna, realizza i tuoi sogni. Sì. Purtroppo le leggi della natura non si piegano ai gusti delle ambizioni dei perditempo. Grazie a Dio. Le piste di gelato si sciolgono al sole. No. Gli sciatori si trovano impantanati in pozzanghere appiccicose. No. Molti si slogano le caviglie e denunciano Fracna. No. Così il nostro povero istruttore di sci fallisce. Perde la casa, perde il lavoro, perde la moglie, perde il senso del tempo. Ora, anche la negli dignità. Occhi di Fracna, C'è tanto gelato allo zabaglione, tanta, tanta, tanta malinconia appiccicosa e gialla come lo zabaglione. Sì. E mentre una lacrima gocciola sul suo viso, gocciola giustamente, un airone si allinea nel cielo, attonito. Si allinea l'airone. Bene ragazzi, io credo che nella in questo malinconia momento di questo resoconto tutti quanti noi abbiamo provato lo stesso sentimento, lo sentimento della bellezza. Ma scusa, si chiamava Fracn? Fracn, è un nome tipico francese. Sì, del Fracn. Sì, sì. È Fracchia in francese. Fracn. Dice, le leggi della natura non si piegano ai gusti e alle ambizioni dei perditempo. Sì, questo dice. È veramente falso, mi spiace per Fiammetta perché... Se fosse così non sarebbe mai esistita Radio Bidon, forse neanche Bidon. In realtà i perditempo sono in grado di sovvertire anche le leggi della natura, siamo qui a dimostrarlo, è la nostra missione. No, in realtà tutto il discorso che ho fatto prima significava in un altro universo che siamo tutti dei perditempo, a seguire il ciclismo. Questa allora, è la realtà. A proposito di perditempo e a proposito di Galibier, ci ha scritto Daniele dicendo gli ultimi 3-4 km saranno duri e anche i primi di discesa. Daniele lo sa bene perché a proposito di perditempo è andato a fare il Galibier questo weekend insieme a Gabbo della Popolare Ciclistica, che sta concludendo il suo Tour de France, e ci ha segnalato che era già pieno di tifosi e soprattutto già scorrevano fiumi di birra. Questo mi sembra un ottimo segnale. Questo è un ottimo viatico. Poi c'è Alex che suggerisce Quintana oggi deve dare un senso a questo Tour, è anche un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. È anche un senso a Quintana, vabbè, ma andiamo avanti. Ma poverino, speriamo faccia bene. Marco invece dice che a lui Uran sembra più motivato e posso essere d'accordo. D'accordo, mi sembra oltre che motivato anche in una forma, nella forma della sua vita, come si dice in questi casi. E... Molti invece tra i nomi noi gli avevamo chiesto chi salta. Salteranno, sì. Yates è quello Giuseppe più gettonato. Dice Yates. È l'unico che ci è stato segnalato. Però è lo stesso che avrei detto anch'io, per cui è già a due voti. Alcuni nominano l'innominabile. Aru scatta frumfora, Marco. Questo è un buon segnale, perché effettivamente ci si chiede oggi dove si accenderanno gli attacchi, ma bisogna chiedersi anche, e in genere coincidono, dove sarà il problema tecnico di Froome, perché certo. In queste tappe arriva puntuale il problema tecnico. Oggi è pieno di zone per potenziali problemi tecnici di Froome. Speriamo di non avere noi problemi tecnici nel vedere questa tappa che si presenta come la tappa regina, la terza di questo Tour de France. Secondo me è la quinta. La terza tappa. Però, vabbè, è un numero regina di ancora? Questa meravigliosa imitazione di Macron che sarà oggi sulle strade di Francia insieme a tutti noi, perché adesso chiudiamo la trasmissione e ci mettiamo di fronte alla televisione. No, dove tra poco, però sì, ci mettiamo davanti alla televisione. Mangiamo prima, ragazzi. No, mi è venuta in mente la pista al pistacchio, così questa allitterazione meravigliosa di Fiammetta. Ma perché brava Fiammetta. Ma lo sai che mi sto convincendo alla fine che realmente abbia dei talenti di questa nostra inviata? Ma arriverà qui in studio un giorno? Prima o poi credo che l'ultimo giorno sarà qui con noi e ce ne farà l'ora. Una... Che In diretta all'impronta, sì. Un resoconto ocra dal nostro studio. Chissà quale sarà l'argomento. Se siete curiosi anche voi di sapere come andrà avanti Fiammetta Ruiu e come andrà avanti il Tour de France, vi invitiamo a seguirlo ovviamente su Rai 3 o su Eurosport in televisione. Dove vi pare. Con noi nel nostro post della sera nel dopo tappa, sì. Oppure con noi domani mattina, come sempre, in diretta alle 11. Ma tu vuoi finire? Io invece voglio leggere altri due commenti, perché tanto oggi siamo cortissimi. Ecco, noi facciamo le scalette, ma poi possiamo buttare. No, ma perché sono due cose importanti. C'è Enrico che dice che ha fatto il militare a Cuneo insieme al nostro Fracn dell'episodio dei resoconti di Ocra. Quindi Enrico, se hai qualcosa in più, almeno soffia un po' via di nebbia sul fatto che Fiammetta inventi queste storie, invece sono storie reali di vita vissuta. Mentre Antonio ci chiede, ma secondo voi Quintana è andato al Tour con ambizioni di classifica o si è ritrovato dato il forfè di Valverde? È una bella domanda. Bisognerebbe chiederlo a Quintana e lui non risponderebbe. Oppure probabilmente non lo sa nemmeno lui. O la risposta è nello sguardo. Antonio ti guarderebbe e tu capiresti delle cose. Non di quella domanda che gli hai fatto, ma capiresti per esempio un esame che hai dato 3 anni prima all'università. Cioè, capisci delle cose. No, poverino, di Quintana ci piacerebbe parlare perché è una situazione non semplice la sua, quella che si è creata con la scelta quest'anno di provare a fare, di vincere il Giro del Tour. È andato male al Tour, abbastanza male anche al Giro, e è una storia difficile, un momento difficile per lui, e gli siamo vicini perché sì, comunque ci piace, sì, Quintana. Noi scherza su Quintana, noi vorremmo tornasse quello che scatta in salita e ci fa divertire, tipo quando? Beh, al martello, la più grande impresa che io abbia visto nel ciclismo moderno, lo dico senza con paura. Il dubbio sempre dell'attacco quando vabbè, ma dai, perché bisogna sempre seminare dubbi. Vabbè, teniamoci l'impresa un'impresa degna di un resoconto ocra. Su Quintana c'è anche, visto che dobbiamo allungare sta puntata, c'è anche il padre di Quintana che è andato in giro a rilasciare dichiarazioni contro Unzue dicendo non si poteva fare la coppiata Giro Tour. Unzue ha convinto mio figlio di questa sciocchezza, ma non doveva farla. E siamo d'accordo anche noi adesso. Ma a me questo dispiace perché significa che molti meno corridori verranno al Giro nei prossimi anni, perché si è capito ufficialmente e definitivamente che Giro e Tour così come sono ora, nella stessa stagione, non si possono fare. Io non sono d'accordo e per dimostrare la mia contrarietà porto il caso di Mikel Landa. Sì, che sì, è andato bene al Giro, anche se non ha fatto classifica, ci si è ritrovato anche lui un po' per... Sì, però non è che abbia risparmiato energie Landa durante, certo, il Giro d'Italia. Chiudiamo, ecco, Piero Naldesi proprio cita Landa. Alex, non vi sta molto simpatico Nairo? Ci sta simpatico, speriamo che torni presto quello di prima e che ci si mostri più simpatico egli stesso con gli atteggiamenti in corsa e fuori dalla corsa. Noi scherziamo solo su quelli simpatici. Esatto, sicuro qualcuno resterà attonito, ci sono gli aironi sul Galibier, ci sono le aquile. Ma ci sono anche non gli escludiamo aeroni. Che ci siano gli aironi. Va bene, siamo pronti, adesso siamo pronti per noi siamo pronti veramente a concludere questa puntata. Andiamo a vederci la tappa, vi invitiamo a seguirci nei prossimi giorni circa alle 11 e vediamo cosa potremmo dire domattina di questa tappa epica sul Galibier. Concludiamo con la nostra classica frase emozionante che oggi ce la regalerà, oggi verrà regalataci, vabbè non è in italiano ma ce la dirà Leonardo Piccione. Quindi rimanete col ciclismo che il ciclismo, dai, dilla tu, niente che è sempre meglio della casa nella prateria. È vero. È una valida alternativa alla casa nella prateria. A domani, ciao ragazzi, ciao, buon divertimento. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'ho visto il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobet.